Io non darò una lettura diversa, ma una prospettiva, proporrò una prospettiva diversa. Appunto la prospettiva del giurista piuttosto che quella dello storico. Io devo dire che quando Gabriele mi aveva telefonato per sentire se ero disponibile a fare questa cosa, avevo opposto alcune obiezioni. Ecco, la prima è che, non essendo uno storico, certamente non sono in grado di seguire il complesso percorso fra le singole edizioni delle varie opere, eccetera. E la seconda è che questi libri, che dovrebbero far parte di un ciclo, insomma, di letture di libri fondamentali nella propria formazione, ecco, per me non sono stati fondamentali, lo dico spudoratamente. E non sono stati fondamentali per varie ragioni. Anzitutto perché non li ho letti prestissimo, le cose che si leggono da ragazzi probabilmente pesano molto di più. Ecco, io ricordo ancora oggi, insomma, distintamente l'impressione di dolorosa sopraffazione che mi ha fatto la lettura del Leviatano o del De Cive, insomma, mi hanno veramente sopraffatto, però di cose che uno si legge da ragazzo e che restano per tutta la vita, insomma. E questi qui li ho letti un po' più avanti, insomma, non tanto tardi, insomma, non ero proprio ragazzo più, e effettivamente mi hanno colpito molto di meno. Mi hanno colpito di meno, ma perché? Sì, certo, perché ero già un po' più avanti. E poi mi sono chiesto, forse perché c'è poco diritto? Ecco, qui se leggiamo Francisci Otomani giureconsulti, Otman si qualifica giureconsulto, ma c'è pochissimo diritto. C'è un tentativo di giuridificazione del diritto di resistenza, ma il diritto è utilizzato in modo tutto sommato discretamente asistematico. Nella Franco-Gallia Hotman ragiona essenzialmente da storico, mentre nelle Vindice, che sia Langhey, che sia Duplessis Mornay, insomma, sia Junius Brutus, ragiona soprattutto, anche se non esclusivamente, l'ha detto giustamente Clerici, da teologo. Cioè, sono infinite le citazioni delle Sacre Scritture nelle Vindice. E tra questi due testi c'è anche un'ulteriore differenza che sta nell'identificazione del patto. Ecco, questo protocontrattualismo è molto diverso, perché, come è stato già detto, per Junius Brutus i patti sono addirittura due. Dio re popolo, il primo, che serve alla legittima istituzione del re, e il secondo, fra il re e il popolo, serve a formalizzare il vincolo di obbedienza del popolo nei confronti del re. Questo discorso è un discorso giuridicamente rilevante, ma non c'è molto diritto, appunto. Però, essendo io un giurista che, diciamo, si occupa di diritto, ma che quale piacciono tante altre cose, questo non sarebbe stato decisivo. E forse più importante è stato il fatto che queste opere mi sembrano scarsamente originali. Scusate, uno lo dice con tutta la modestia che bisogna avere in questi casi, ma visto che siamo in pochi tra amici, lo dico sinceramente. Perché secondo me sono troppo debitrici di Bartolo e di San Tommaso e di Calvino, ovviamente. Di Bartolo, perché la teoria del tiranno, che troviamo soprattutto nella Franco-Gallia, soprattutto nelle Vindice, la teoria del tiranno è proprio la teoria di Bartolo, che Bartolo ha esposto in tre opere assolutamente fondamentali: il Tractatus de Regimine Civitatis, il De Tiranno e il Tractatus de Guelfis et Ghibellinis. Opere di una profondità straordinaria e che confermano, diciamo, la mia impressione, mia e di molti altri, che sia il più grande giurista di tutti i tempi. È uno dei più profondi pensatori politici, diciamo, che l'Occidente abbia mai avuto. Calvino, ci torneremo poi, nell'Institution de la Religion Chrétienne cito la versione francese perché è quella più evoluta, insomma, di questa opera magmatica, insomma, che nasce prima in edizione latina. E nell'Institution de la religion chrétienne, Calvino sostiene tesi che saranno poi replicate dalle Vindice, anche se ad argomenti di sacre scritture rovesciati. Vedremo adesso il perché. Non solo, anche l'idea che molto poteva fare scandalo, che i principi sono istituiti da Dio, insomma, questa idea che i principi sono istituiti da Dio, in realtà è un'idea che non era affatto sconosciuta, anzi, era un patrimonio del pensiero cattolico anche. Cito per tutti Francisco De Vitoria, il De Jure Belli, è un trattato, per citare una letteratura, diciamo, di quegli anni. Francisco De Vitoria tiene la sua relazione su De Jure Belli nel 1539. Quindi tutta l'insistenza della Francogallia sull'elezione dei re in realtà colpisce fino a un certo punto. Poi, tra l'altro, molti storici hanno ovviamente contestato una certa disinvoltura di Othman nell'affastellare dati storici che invece non erano confermati, una sua lettura, diciamo, della Francia proto-medievale, insomma, è stata molto contestata. Però, quindi, non ho mai avuto una grandissima passione intellettuale per questi due libri. E, altra cosa però è la passione politica, e questi libri hanno avuto successo perché hanno stimolato passione politica, ma il successo di queste opere, secondo me, è imputabile al fatto che, per carità, sono opere, insomma, sublimi per noi, certamente io sono meno sublimi di altre, per questo mi permettevo di criticarle. E, di mezzo c'è La notte di San Bartolomeo, no? Insomma, è questo fatto, e nella quale tra l'altro Othman aveva sostenuto di aver perduto la moglie e la figlia, e poi invece ritrova improvvisamente. E quindi è chiaro che, è stato giustamente ricordato da Clerici, qui insomma non è che stiamo parlando di trattati di filosofia del diritto, insomma, no? Ecco, stiamo parlando di opere che avevano intenzionalmente un impatto politico immediato, e quindi questo ha determinato anche il loro successo. Il problema che queste opere pongono è appunto politico, è un problema politico. Su questo vorrei insistere con qualche decisione, perché il loro problema non è quello del diritto individuale di resistenza, ma è quello del diritto collettivo di resistenza. Si interessano quanto marginalmente del problema della libertà di coscienza, e molto di più invece del problema del rapporto tra il sovrano e i corpi politici della società. Questo del resto, a me sembra abbastanza comprensibile, anche perché di fronte al diritto individuale di resistenza c'è sempre stata una qualche, anche giustificata, diffidenza. Di talché io avverto una qualche difficoltà a condividere tesi che fanno partire la storia, diciamo, del diritto di resistenza da Antigone. Ecco, ho delle difficoltà. Ho delle difficoltà perché proprio lì invece è la dimensione individuale che emerge con molta forza, mentre invece è proprio al contrario la dimensione collettiva che radica nella tradizione del pensiero politico e giuridico occidentale il diritto di resistenza. Tra l'altro, tutta questa vicenda di Antigone, secondo me, può essere, come tutti i grandi classici, i miti, poi, insomma, è una miniera senza fine, e può essere vista da tante prospettive. Io personalmente ci vedo, per esempio, dentro il problema del processo, cioè il grande scandalo della condanna di Antigone non è tanto e non solo nel contrasto tra la legge divina e la legge umana, ma nel fatto che Antigone viene condannata per la volontà del tiranno, per la volontà di Creonte, senza un processo. E questo Sofocle lo dice chiaramente, è la doxa di Creonte, in ragione della doxa di Creonte che Antigone viene condannata. E quindi questo è un elemento fondamentale. Del resto Sofocle poi non sa che pesci prendere, insomma, perché che cosa succede? La condanna di Antigone gli sembra ingiusta, ma gli sembra anche ingiusta questa ribellione individuale del tutto incontrollabile di Antigone, tanto vero che poi come finisce la storia? La storia finisce che Creonte dice, vabbè, liberatela, vanno a liberarla ma è troppo tardi. E quindi in qualche modo Antigone viene comunque punita, ancorché, diciamo, dalla natura, viene murata, e non ce la fanno a liberarla prima che muoia. E questo è molto significativo, diciamo, dell'estrema cautela che bisogna nutrire nei confronti della ribellione individuale. Ma il debito nei confronti di San Tommaso e di Bartolo è impressionante. E in particolare San Tommaso, poi veramente le riflessioni di San Tommaso stanno alla base di tutta quanta questa vicenda. Ovviamente sono passi notissimi della Summa Teologiae e Secunda Secunde, in cui effettivamente San Tommaso pone le pietre sulle quali verrà poi eretto l'edificio di tutta quanta la riflessione sul diritto di resistenza e sul tirannicidio. Perché San Tommaso qui si interroga sulla natura peccaminosa o meno della sedizione. Questo pone proprio questo problema. Che cosa fa? Dice innanzitutto, dice, guardate, la sedizione differisce dalla guerra, perché non si rivolge ad estranei o nemici, e invece si rivolge all'interno, e differisce dalla rissa, perché la rissa è una cosa di singoli, o tutt'al più di pochi, mentre invece la sedizione è di un gruppo organizzato. E la sedizione, dice, propria est inter partes unius multitudinis inter se dissentientes. Questo è il punto, sono gruppi che confliggono l'uno con l'altro. E si ha cum una pars civitatis excitatur in tumultum contra aliam. Insomma, questo già allora si è detto tutto. E per questo la sedizione mette a rischio questo che è un bene speciale, e cioè unitatem et pacem multitudinis. Questo è il punto, insomma, ecco, questo è veramente il punto autentico. E allora la sedizione è vista con grande preoccupazione da San Tommaso, proprio perché la pace e l'unità della moltitudine, insomma, la pace e l'unità della comunità politica sono i beni supremi. E dice però San Tommaso, vabbè, ma almeno contro il regime tirannico è possibile ribellarsi? La risposta di San Tommaso è, diciamo, ni. Nel senso che riconosce San Tommaso che quel regime non è giusto, perché scrive, non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis. E dice anche che la ribellione contro questo regime è uno strumento di ripristino della giustizia. Di ripristino della giustizia, questo è un elemento sul quale torneremo fra poco. Attenzione, ripristino della giustizia, quindi dell'ordine. E si appella quindi a San Paolo, no? Ma lo ritiene inammissibile, qui mi permettete questa citazione un po' più lunga, quando sic in ordinate perturbatur tiranni regimen, quod multitudo subiecta, maius detrimentum patitur ex perturbazione conseguenti, quam ex tiranni regimine. Quindi è vietato ribellarsi in ordinate, disordinatamente. Cioè, se la moltitudine subisce un danno superiore dalla rivolta rispetto a quello che subiva dal regime tirannico, non ci si può ribellare. E soprattutto non ci si può ribellare disordinatamente. Perché? Perché l'essenziale è il mantenimento dell'ordine, di un ordinamento civile. E su questo torneremo poi, perché in tutti quanti i nostri autori torna questa questione dell'ordine. Di quale ordine si tratta? Di un ordine umano? Di un ordine umano costituzionale, di valori costituzionali? O di un ordine divino? Ovvero di un ordine umano in quanto è traducente un ordine divino? Probabilmente è questa terza la cosa. E veniamo a Calvino. Che cosa scrive Calvino, capitolo 20 del libro 4 dell'Istituzione Cristiana? Esordisce con una citazione di Geremia che fa caponare la pelle sulla necessaria subordinazione, assoggettamento degli ebrei agli arbitri di Nabucodonosor. E dice, risulta da queste parole, scrive Calvino, con quanta obbedienza nostro Signore ha voluto fosse onorato questo tiranno perverso e crudele per il solo fatto che possedeva il regno. Insomma, non coltivate folli pensieri di sedizione. I re sono dati da Dio, e poiché sono dati da Dio, anche se si fanno tiranni, ce li teniamo, non c'è niente da fare. Bisogna obbedire. Non spetta, ecco, poniamoci chiaramente innanzi il pensiero che non spetta a noi porre rimedio a questi mali, ma non resta altro che implorare l'aiuto di Dio, nelle cui mani sono i cuori dei re e i cambiamenti di governi. Ancora altri passaggi importanti. Però arriva, ecco, e qui Calvino si differenzia da Lutero, dice però non è chiesto altro se non obbedire e sopportare, però mi riferisco sempre a privati cittadini, perché se esistessero nel nostro tempo magistrati istituiti per la tutela del popolo e per porre freno all'eccessiva licenza e cupidigia dei sovrani, come anticamente gli efori, i tribuni della plebe, i demarchi ateniesi, eccetera, bene, allora le persone investite di tali cariche sarei lungi dal proibire, secondo i compiti del loro ufficio, l'opposizione e la resistenza alle intemperanze e crudeltà del sovrano. Devo obbedire al re, legittimamente costituito, però, perché è dato da Dio, però devo obbedire al Signore. Il Signore è il re dei re, e a lui devo obbedienza fra tutti. E se costoro, i re, ordinano qualcosa contro Dio, non si debbano tenere in alcuna considerazione. Allora, qui sembra, c'è una conclusione molto affrettata, sono pagine e pagine dell'istituzione della religione cristiana che sono dedicate all'esclusione assoluta del diritto di resistenza. Poi improvvisamente esce fuori questo fatto che invece si può anche ribellare se il re si fa tiranno e va contro le prescrizioni divine. È tanto affrettata questa conclusione che poco si comprende, però è chiaro il pensiero di Calvino. Se c'è una magistratura che è preordinata al controllo del sovrano e a far sì che egli non si faccia tiranno, allora a questa magistratura occorre obbedire, vero? Perché la sua funzione è proprio quella, ed è una funzione costituzionale, una sorta di positivizzazione, diciamo, della subordinazione del volere dei re al volere di Dio. Non di meno. E qui c'è un elemento invece di differenziazione, tanto nelle Vindice quanto nella Francogallia, non è richiesta questa magistratura specifica, cioè che ci sia un eforo, un tribuno della plebe, un demarca, no, basta che ci siano dei magistrati, questo è stato già detto da clerici, non lo devo ripetere, è esclusa tassativamente da questi autori la ribellione dei singoli ed esclusa tassativamente la ribellione del popolaccio. Ecco, è ammessa la ribellione soltanto se guidata da magistrati legittimi, che sono magistrati che rappresentano il popolo. Il nesso rappresentativo non può essere rotto. Questi due libri, quindi, e qui mi differenzio un poco da clerici, non sono libri democratici, giusto, ma non sono nemmeno libri, opere filomonarchiche, sono opere aristocratiche, E quindi, secondo me, è in errore chi, anche tra i costituzionalisti, sostiene che l'obiezione di coscienza sarebbe un diritto liberale e la resistenza un diritto democratico, perché nella storia del diritto di resistenza, invece, il diritto di resistenza ha una matrice essa pure aristocratica. Ma l'osservazione che più mi interessa è questa, che la matrice impronta aristocratica di queste opere emerge anche su un piano più generale e più sistematico, soprattutto nella Francogallia. Perché Hotman è un ammiratore dei Germani, è proprio un ammiratore dei Germani, appunto. I Franchi sono visti come effettivamente i liberatori dei Galli, insomma, o perlomeno i ripristinatori di quelle libertà originarie che i Galli avevano perduto a seguito della soggezione a Roma. Detesta Roma e la sua eredità. Ovviamente quest'odio per Roma è motivato dall'odio per gli italiani che stavano alla corte di Francia allora. Detesta la chicanerie romaine, lo dice proprio questa chicanerie romaine, scusate, è troppo carina questa storia, o la tradizione francese, questa del 74, vabbè, ma insomma, comunque questa cosa va bene lo stesso. Ecco qua, i pratici della corte del Papa frequentavano molto e si mescolavano con quelli della nostra nazione, le insegnavano quest'arte della chicanerie romaine e corrompevano i costumi di Francia, né più né meno che come persone infette da una malattia contagiosa. Roma ladrona. Roma ladrona. Ecco, allora, se però facciamo un minimo di ragionamento. Quello che entusiasma Othman non è la libertà del cittadino romano sulla piazza, ma è la libertà del portatore d'armi germano nelle selve. Ma se è così, poiché è dalle selve germaniche che nasce il sistema rappresentativo, come scriveva Montesquieu, è questa un'ulteriore riprova della matrice aristocratica di quest'opera. È nella piazza, nella piazza romana e greca, che nasce l'ideale, l'idea della democrazia. Nella selva germanica questo non accade, insomma. Ecco. E la cosa curiosa è che questo testo, soprattutto sia la Francogallia che le Vindice, insomma, saranno appunto delle sorte di scritture sacre di chi ha sempre voluto immaginare un rafforzamento, una positivizzazione del diritto di resistenza. Ma la cosa bizzarra è che quel diritto di resistenza, che sarà poi formalizzato dai rivoluzionari francesi, è formalizzato da soggetti che avevano una prospettiva assolutamente antitetica rispetto alla loro. Antitetica. Perché i rivoluzionari francesi esaltavano la legge. Ah, scusate, momento, attenzione, passaggio intermedio. Altra ragione della impostazione aristocratica. Per Othman, soprattutto per Othman, quello che conta non è la legge, è la coutume. La coutume. La coutume non nel senso, anche questa è un'altra cosa divertente, non nel senso critico in cui ne parla della la Boétie, che pure sta insieme a questo gruppetto, diciamo era cattolico, ma insomma lo mettono sempre insieme agli Ugonotti, non la coutume nel senso dell'abitudine, insomma, ma la coutume nel senso il costume, insomma, le consuetudini. Piace moltissimo il regime delle consuetudini a Othman, e questo è aristocratico. Perché la legge è democratica, la consuetudine è aristocratica, perché è l'aristocrazia che è la portatrice e l'interprete della tradizione. Questo lo sapeva già Platone, e quindi è una cosa, diciamo, che è talmente chiara ed esplicita che non c'è bisogno di soffermarsi su questa più di tanto. Ebbene, i rivoluzionari francesi esaltavano la legge, la creazione artificiale del diritto, il potere costituente, il Dio in terra che era necessario evocare perché si stava detronizzando, e anzi tagliando la testa, al re istituito per volontà divina. Bisognava trovare un sostituto di questo Dio che veniva così contestato da mettere in discussione il suo rappresentante in terra. Ebbene, tutta questa artificialità è tutta quanta nella prospettiva democratica, nella prospettiva aristocratica invece c'è tutt'altro. E i rivoluzionari francesi sono votati al culto di Roma sulla scia di Jean-Jacques Rousseau. E insomma, basta vedere Robespierre, Saint-Just, la frase meravigliosa di Saint-Just, no? Il mondo, i romani, scusate, della cui nostalgia il mondo è pieno sin dal momento della loro scomparsa. Sacrosanto, e ancora oggi, diciamo, se permettete, condivido questa, a 2000 anni da 2000 anni da Teutoburgo, mi permetterete, diciamo, di condividere questa posizione, questa prospettiva. E ecco, appunto, queste due opere grandissime che stiamo commentando partono da una prospettiva completamente diversa. Se ho 5 minuti, però vorrei fare il mio mestiere di giurista positivo. Il mestiere di giurista positivo lo faccio appunto sulla questione della positivizzazione del diritto di resistenza. È stato ricordato l'atteggiamento dei nostri costituenti, giustamente cauto. Credo che abbiano fatto benissimo sia a respingere la proposta di Dossetti, come fecero bene a respingere la proposta di Lapira, condotta sino all'ultimissimo istante, quando addirittura si stava votando il testo costituzionale, di far premettere alla Costituzione un'invocazione a Dio. Ma non lo dico perché, no, ma semplicemente per una questione di prudenza, appunto. Ecco, furono saggiamente prudenti. Però, nella Costituzione tracce del diritto di esistenza ci sono. Ci sono tracce del diritto di esistenza. Queste tracce del diritto di esistenza, secondo me, stanno in due articoli della Costituzione, nel 40 e nel 52. Sull'articolo 40, e cioè il diritto di sciopero. Allora, scusate, tanto qui lo citavo, c'è un intervento di Di Vittorio in terza sottocommissione il 24 ottobre del 46, e Di Vittorio evocava lo sciopero generale del 22 e ricordava come Turati lo avesse definito sciopero legalitario, e Di Vittorio condivise quella qualificazione perché essa, quello sciopero, aveva per fine la difesa della legalità democratica contro l'illegalismo della violenza fascista. Poi sono stati anche storici del diritto romano che hanno collegato il diritto di sciopero al diritto di resistenza, nella prospettiva del potere negativo, insomma, soprattutto evocando la tradizione tribunizia romana. E questa prospettiva mi convince questa prospettiva, sono anch'io su questa linea. E i costituenti avevano intuito questo, lo sciopero politico è l'ultima riserva che si può mettere in campo quando altri strumenti falliscono, e i costituenti lo sapevano. La seconda traccia più evanescente è quella dell'articolo 52, il sacro il dovere di difesa della patria, perché il sacro dovere di difesa della patria viene normalmente concepito come sacro dovere di difesa in armi della patria rispetto al nemico esterno. Badate bene, l'unico dovere per il quale c'è scritto sacro, e i costituenti, insomma, loro le cose le sapevano, insomma, che pesavano le parole, questo aver scritto sacro è voluto, perché effettivamente muovevano dall'idea che tutti i diritti costituzionali, cioè non certo da questa idea, perché questa dommatica è molto contemporanea, ma insomma, muovevano dall'idea comunque che tutti i diritti costituzionali, tutti i valori costituzionali sono bilanciabili, che non c'è un valore costituzionale ultimo, non esiste un valore costituzionale ultimo, nemmeno la dignità umana, anche quella è bilanciabile, anche in Germania, dove pure affermano che non è bilanciabile, da ultimo la sentenza Lissabon-Urteil, la sentenza sul Trattato di Lisbona, e anche lì la dignità umana viene comunque bilanciata dal Bundesverfassungsgericht. I costituenti questi lo sapevano, e se c'è un valore che non è bilanciabile con nessun altro, forse questo valore è il primum vivere, e cioè è la tutela dell'esistenza dell'ordinamento in vita. Ed è per questo che i costituenti scrissero che il dovere di difesa della patria era sacro. Allora, quel dovere sacro di difesa della patria può essere letto non soltanto come un dovere di difendere la patria contro il nemico esterno, ma di difendere la patria contro il nemico interno, e cioè il mantenimento dell'ordine costituzionale. Nella prospettiva del dovere, dunque, non del diritto, ma è chiaro che una posizione di dovere, l'adempimento del dovere, costituisce un diritto. E quindi, ragionando in questa chiave, vedo anche nell'articolo 52 la traccia dell'esistenza di un diritto di resistenza. In ogni caso, il diritto di resistenza, e chiudo una parentesi che avevo aperto diverso tempo fa, è funzionalizzato alla difesa dell'ordine costituzionale. Ritorna nuovamente la questione dell'ordine. Torniamo a San Tommaso. Mi posso ribellare, ma per ripristinare un ordine violato, quale che sia quest'ordine, per me giurista positivo, l'ordine è l'ordine costituzionale, per qualcun altro sarà l'ordine divino, ma insomma io da giurista positivo mi attengo all'ordine costituzionale, e questo mi interessa. E se andiamo a vedere nelle costituzioni contemporanee come stanno le cose, a parte un caso che adesso vi dirò, effettivamente siamo orientati in questo senso. Il diritto di resistenza è stato introdotto nella Grundgesetz tedesco da una legge del 68 all'articolo 20, quarto comma. Tutti i tedeschi hanno il diritto di resistenza contro chiunque unternimmt, insomma, agisca, intraprenda, ma insomma questo intraprenda un'azione, cioè i meri atti preparatori non sono contemplati, un po' è una formula meno meno garantista, ma abbastanza vicina a quella del nostro articolo 283 del Codice Penale, l'attentato alla Costituzione. Coloro che intraprendono un'azione, diciamo, per distruggere questo ordine, l'ordine che è stato definito prima, quando non sono possibili altri strumenti. Insomma, disposizione altri strumenti. Attenzione, l'articolo 20 però sta nel secondo titolo, Bund der Bund und die Länder. Non sta nella parte sui diritti fondamentali, sta nella parte sul Bund der Länder. Perché? Perché è concepito non tanto come un diritto fondamentale, bensì come uno strumento di tutela dell'ordine costituzionale, ma con una contraddizione. Perché l'articolo 116, secondo comma, del Grundgesetz prevede espressamente che il diritto di cui all'articolo 24 comma, cioè il diritto di resistenza, sia tutelabile come i Grundrechte, quindi come i diritti fondamentali, dice non è un diritto fondamentale, ma è Grundrechtsähnlich, direbbero i tedeschi, no? Cioè è diciamo simile, assimilabile ai diritti fondamentali. Questo diritto è tutelabile con la Verfassungsbeschwerde, cioè con il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, al Tribunale Costituzionale Federale. E qui c'è un curioso cortocircuito che si innesta, insomma, perché questo è un diritto che si può esercitare soltanto quando non funziona più niente. E però lo posso tutelare con quell'istituto che smette per primo di funzionare quando le cose non funzionano, che è la giustizia costituzionale. E allora, la prudenza dei costituenti italiani, vi devo dire la verità, mi piace di più. Così come mi piace di più la formula della Costituzione italiana, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, mi piace molto di più della formula tedesca, secondo la quale la Würde des Menschen ist unantastbar, la dignità dell'uomo è intoccabile, per poi scoprire che invece è toccabilissima. Gli altri esempi sono in questo stesso senso. Costituzione greca, articolo 124 comma, l'osservanza della Costituzione riposa sul patriottismo dei greci, che hanno il diritto e il dovere di resistere con tutti i mezzi contro qualsiasi persona che ne tenti l'abrogazione con la forza. Siamo sempre là. Scusate, questa magmatica. Ecco qua, la Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Articolo 350. Il popolo del Venezuela, fedele alla sua tradizione repubblicana, alla sua lotta per l'indipendenza, la pace e la libertà, rifiuta qualunque regime, legislazione o autorità che sia contraria ai valori, principi e garanzie democratiche o diminuisca i diritti umani. Anche qui c'è un'esigenza di tutela dell'ordine. Anomala è la Costituzione portoghese. Sono stampato gli articoli rilevanti, ma nella stampa c'è qualcosa che non va, mi manca un pezzo a destra. Mi credete sulla parola? Ecco, insomma, tutti hanno diritto di resistere a qualunque ordine che offenda i suoi diritti, libertà e garanzie, e di respingere con la forza qualunque azione lesiva, ci dovrebbe essere scritto se non mi ricordo male, quando non sia possibile ricorrere all'autorità pubblica. Qui c'è una dimensione più propriamente individuale del diritto di difesa, del diritto di resistenza. Tanto vero che nell'articolo 103, terzo comma, si dice che addirittura che nessuno può essere obbligato a pagare imposte che non siano state stabilite nei termini della Costituzione, che non abbiano e che abbiano natura diciamo sostanzialmente espropriativa e la cui liquidazione e acquisizione non si facciano nei termini della legge. Questo è anche un elemento, anzi molto pericoloso, da noi sarebbe pericolosissimo, di subiettivizzazione del diritto di resistenza. E poi l'articolo 271 della Costituzione addirittura prevede che cessa il dovere di è costituzionale dato il diritto qui, noi abbiamo soltanto nel codice penale previsioni analoghe, cessa il dovere di obbedienza sempre che l'osservanza degli ordini o istruzioni implichi la commissione di un qualsivoglia crimine. Questo blocco di diritti dalla dottrina portoghese viene inserita nel gruppo dei diritti di difesa, insieme al diritto di difesa in giudizio, alla partecipazione al procedimento amministrativo, eccetera, eccetera. Tutti questi per la dottrina portoghese stanno tra i diritti di difesa e quindi in quella prospettiva è maggiormente sottolineato l'elemento soggettivo, proprio perché c'è una prospettiva individualistica superiore nella Costituzione portoghese. Tuttavia, io resto convinto di questo, che qualunque tentativo di subiettivizzare il diritto di resistenza si espone al rischio fondato dell'arbitrio e che addirittura quel diritto che è diverso dal diritto di resistenza, che è l'obiezione di coscienza, debba essere in qualche modo tipizzato e attentamente positivizzato. L'esperienza italiana ci insegna che il diritto, che l'obiezione di coscienza può essere estesa sino a limiti assolutamente inaccettabili. Penso all'obiezione di coscienza del magistrato che rifiuta di applicare la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Penso all'obiezione di coscienza del magistrato che rifiuta di amministrare giustizia perché nella sua aula c'è un crocifisso. Essendo stato, diciamo, difensore di coloro che si sono, insomma, della questione del crocifisso, lo posso dire senza tema di che ci sia fraintendimento, diciamo, ecco, quel magistrato, si pensi ciò che si vuole sulla esposizione del crocifisso, e io penso che il crocifisso, che non ci sia una norma italiana positiva che legittimi la sua esposizione nelle aule scolastiche, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha dato ragione, e fermo tutto questo, il magistrato non si può rifiutare di amministrare giustizia perché c'è un crocifisso nella sua aula, perché la sua coscienza gli impedirebbe tutto questo. Tanto vero che la giurisprudenza ha seguito questa tesi e, pur riconoscendo, come dire, alcuni elementi di alcune attenuanti, insomma, ha ritenuto che questo fosse un comportamento penalmente sanzionabile. Quindi, per concludere, mi pare che se dovessimo trovare un filo rosso in tutto il discorso che abbiamo fatto qui oggi, questo filo rosso sia l'ordine. Ed è questo forse un paradosso, perché sembra che il diritto di resistenza sia uno strumento, un evento che mette in discussione l'ordine, e invece tutti coloro che hanno ragionato sul diritto di resistenza hanno ragionato sul diritto di resistenza come uno strumento di ripristino dell'ordine. E il vero problema è quello cui accennavo precedentemente, di quale ordine si tratta.